se sono ti centri, non è che tu puoi trovare la frequenza quindi direttamente. Per esempio, ecco, passa per esempio un, ecco, su 20, come tu hai detto, va bene. Io passo su 20, tra me e te, non siamo in linea, capito? Per cui ho una massa per spostarti, perché c'è qualcosa da fare che l'altro che bisogna spostarlo, capito? Sì, ma quello succede, ma dalla laterale succede. Poi mi raccomando, quando ho detto di andare in MSB, non ho attaccato subito, senza nessun problema, subito attaccato, va bene. È strano, è solo a fare che l'altro che c'è questa incompatibilità. Ma io infatti sono passato focato quando hai letto il compasso su 20, siccome stavo ascoltando, sono passato senza toccare niente che ho trovato subito. Anche io ho trovato subito il canale, non ho portato quasi nulla. Ma non finito, proprio per la festa. E c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Avanti, vuole entrare. Storia pure. Vabbè. Noi ci vogliamo molto. Qualche cosettina, capito? Da una parte. Cazzate, diciamo. Io non lo conosceva per che ci va direttamente lì, capito? Ma tu non ci vuole conoscere la parecchia. Grazie a Dio, guarda, mi uso per la parecchia, per il quale sono usato tutti i regolatori, il domicilio, eccetera, eccetera. Però, se c'è una mano, la vi trovata. E con le mani grosse, caro mio, viene un po' malino. Se di lui non ci dà l'altra. Ecco, sono uno sopra l'altro, infatti. Che fino al tunnel e più c'è la spostamento, ho capito. Ebbene, ecco, girano insieme, non dovrebbe girare insieme, così è troppo stretto. Sì, non devo fare quello che è piccolo, ma comunque nell'altra parte che c'è una specie di aletta alla fine del tunnel, capito? Un'aletta che buttava fuori, se lo prendo il rigato, capito, con lì. Io vado che non girasse l'altro. Ho capito. Ma allora è nuovo la parete. Questo. Sì. Ma è nuovo di biblioteca. Solo che è a seconda mano, ma è praticamente non è mai stato toccato, capito, con la parete. Nuovissimo, non c'è un graffietto, non c'è niente. Poi dalle viti si vede quando c'è stato il cacciavite si vede. Ma voglio dire, veramente è stato usato a posto per cui, ma strano, non è una cosa grave, quello basta a farlo giocare, perché non dovrebbe girare tutti insieme, dovrebbe girare o uno o l'altro se ne parte, o si inizia un po' di polvere, da una rotta nell'altra, allora si aggancia poco a poco. E tutto glielo pulisci e lo rimetti, prova a vedere. No, ma non è che giro insieme, non mi capisco male domani, a volte, siccome è come la chiappi, quindi facciamo grosse, non è male girato, capito? Una alla volta, allora bisogna prendere uno con un dito e l'altro girato, capito? Oh, capito. Molto bene. Che altro c'è? Ma c'è la Roberto Quadrato, c'è la Luca Fili, che è scomodato, so cosa gli sia successo. E poi c'è la Luca Panicone, insomma, aveva l'impiegata, e adesso non c'è più nessuno, ma io non ho mai sentito nulla, nemmeno la sera. Roberto? Esattamente, impegnati in qualche altra cosa. Sono andato a toccare, ma non credo in questo senso. Adesso tre che avanti. Ciao, domani è soltanto, sono rientrato. Avanti già. Ma avanti che stavi guardando, Robert, ciao. No, mi stavo guardando i risultati, la parte tagliò per me, ma la guardo dopo. Stavo guardando i risultati di tutti i ragazzi che mi interessavano. Ma non so che ti intendi di televisione, invece ti voglio fare una quesito. Io per dire, ho un televisorino in radio che è stato uno dei primi televisorini a colori che è uscito, di quelli piccolissimi, ce ne sono di con lo schermo piccolo, che c'è la radio FM, AM, eccetera, eccetera. Adesso quando esce il spogliato lui, uno strappa non è l'unità, questa con tre volte un televisore di quelli normali, uno portatile a 12 volte a colui. La marca antica faceva anche gli apparecchiature professionali, è un geloso, è il televisore, mangiarastri e radio, però quello è bianco e nero lo stesso. No, io ce l'ho a colori, infatti il mio è stato uno dei primi a colori che è uscito, capito? Non capisco, no, io sono uno piccolino a colori e basta, che non lo uso mai, mi sembra che sia una decina d'anni, è una decina d'anni e fermo, perché ho provato varie cose, ma si mangia l'anima delle batterie, lo posso attaccare con un trasformatore, funziona benissimo. Poi in macchina a 12 volte no, bisogna trovare un posto di motore, però in macchina non esiste, non uso nemmeno la radio, si può immaginare. No, lui funziona in macchina, a caso dove c'è solo 20 e a batteria, c'è qualcosa anche al mare, invece qualche cosa, oppure ci ascoltavamo la radio, quello che volevi facevi, perché quando c'è anche la radio ci ascoltavamo anche la radio. Era bellino quello lì, infatti, con la maggior attenzione ho rimasto proprio qui dove c'è la stazione, proprio per questa cosa, per staccare le cose dell'edizione della terrestre, cosa vuoi, come la faccio a vedere? Sono più completo, bravo. Vabbè, riprendo, ma sono un po' imporrici e sto combinando qualcosa. Adesso ho fatto di visitare il telefono, un sacco di gente fregata, soprattutto le persone anziane, prenderanno le fregature, andranno nei negozianti, quelli di pochi scrupoli, le tireranno le fregature, quello che mi dispiace. Comunque c'è un sacco di gente per il fatto dei mondiali, diciamo noi in 16 dovrebbero attaccare qua a Sassari. Speriamo che loro dopo i mondiali, perché stanno dicendo che vogliono portare al 30 di luglio, al 31 luglio, così lasciamo finire il mondiale, perché c'è il rischio che qualcuno non si veda le partite. Vabbè, io dico una cosa, ma tu cosa consigli? Devi acquistarlo subito questo qui oppure di aspettare adesso? Guarda, io ti posso dire una cosa, sull'elettronica è inutile aspettare, perché il discorso adesso tu lo paghi, io sono più di 2 anni, appena era uscita la legge io sono preso quel contributo, sono 3 anni adesso qua, addirittura era uno dei primissimi, mi pare in tutta Italia ne avevano fatto 120.000 mi sembra, il primo fanno in tutta Italia, sono stato uno dei primissimi che l'ho preso, perché a me interessano sempre le novità, e l'ho pagato anche abbastanza, ti posso dire, rispetto a quanto potrebbero dare adesso, però il discorso, se pago il discorso lì non devi comprare niente, perché dopo qualche mese ci sono dei miglioramenti impressionanti. Non so. Sì, ma lo migliorano magari anche che tecnicamente, poi con l'andare del tempo, se vedo che c'è qualche piccolo difetto, lo migliora. E no, io l'ho preso, ma l'ho preso quest'anno, l'ho preso col contenuto. Ma sai cosa è il discorso? Che ci dobbiamo abituare al cambio canale, perché questi apparati qua, tu sei abituato a fare lo zapping, ma almeno io giravo il canale, se mi guardo il canale 5, 3, 4, giro velocissimamente, cambio canale, qua è molto più lento, quando i canali e ti devi abituare, lo zapping è molto più lento, e quello lì secondo me è un difetto, infatti questi di nuova generazione sono leggermente più veloci, però sono sempre un po' lentini a caricare i canali, però c'è un sacco di discorsi, perché c'è quel discorso dell'interattività. Adesso per dire c'è il comune di Sassari che può stampare un documento, un certificato, l'università di Sassari, la stessa parte interattiva, ci sono delle cose interessanti che anche nel futuro potrebbero essere utili. E comunque a me mi devono dare un programma dove vedo tutte le televisioni gratis al computer. C'è un amico mio che è specializzato in queste cose, ma è stato in modo legale. Siamo stati il programma, cioè, anche io l'ho preso, anche io quel discorso lì, l'ho preso che è presente non nella lingua originale, ma se non sono computer, io l'ho sempre visto tra parentesi con satellite, perché mi collegavo ai trasferimenti, che riguarda in cinese, normalmente sono in cinese le lingue, ma non te ne frega niente, a limite ti metti la radio vicino, sempre che non sia leggermente in ritardo l'audio, perché molte volte ti capita che c'hai l'immagine o l'audio anticipata, per cui metti su alta, però per vedere le partite non sono continuità, è importante che vedi le azioni. L'audio è diverso, diciamo. No, ma è meglio fatto. Non mi interessa, io voglio vedere il film e cose del genere. E mi ha detto, guarda, lo faccio avere, te lo scarico così te lo guardi. Ma lui non mi ha parlato di questo, mi ha parlato proprio di programmi televisivi, li vedi tutti, ma adesso è gratis. No, non è proprio così, non tutti i canali. Tu vedi certi tipi di canali e di certe nazioni, canali italiani non ne vedi tu, in chiaro. Non ce ne sono, non trasmettono via web. Meglio la radio peggiorata. Prova, fa un passaggio. 1, 2, 3, esce lo tolto l'ecco, là. No, va benissimo, ma se può andare un pochettino di più può andare meglio, là. Così, va bene. No, non ecco, l'ecco non mi piace, ma questo dico che è partita. Andava benissimo, se può andare come livello parlo. Prova, è così. Partita che ti dà cosa non sono su vabbè, tu prego, dimmi. Io le partite le vedo ugualmente, non le vedo a pagamento ma le vedo registrati, per esempio oggi le danno in diretta, domani invece le vedo gratis, poi basta avere la FAB, è un canale che vedi, vedi le partite internazionali e gratis, magari non le vedi in diretta, le vedi domani, però le vedi gratis. Allora io adesso lo dico, non già le faccio la parola, no, anche la parola, io di satellite dopo i vantaggi ho una buona esperienza, perché sono stato forse il primo satellite che ci ha aiutato motorizzato digitale, non forse, sicuramente il primo che ci ha aiutato motorizzato, e fido chiunque mi dimostri il contrario. Prima di quello c'era un impianto motorizzato, c'è ancora analogico, io tutte le partite prima di farmi l'abbonamento a te che ce l'ho da 2 anni, e ho sempre guardato gratis, gratuitamente mi cercavo il satellite, con la parabola grandi e gli impianti di un certo livello, ti imposti la frequenza di trasmissione del canale dei feed, si chiamano feed di trasferimento, me ne vado su quel satellite di dove media che ti manda il trasferimento alle reti terrestri e mi guardavo la partita, tutte le partite, se non c'era, se non riuscivo a beccare il feed, andavo sul canale, per dire un canale turco, un canale albanese, dove mi davano le partite, ti davano gli eventi più importanti. E io cosa facevo? E io ce la dovevo fare un bicchiere la motorizzata, l'analogico che intendiamo, cioè, che adesso l'ho regalata a Manuele, l'ho regalata, l'ho tolta, e perché l'analogico sa benissimo che sono quasi tutte spente, ce ne sono pochi adesso, quelli analogici, capito? E mi ho messo la verticale, però la parabola l'ho tolta, era 120 motorizzata. E per cui facevo il lavoro anch'io, capito? Anche c'ho quella normale, cioè, però c'è la digitale, capito? K, addirittura io avevo i d'accordo di 2 Mac, di 2 Mac, non so se sentito, per i canali svedesi che ti davano le partite, sabato e domenica ti davano le partite, prima che esistesse il discorso di Telepiù, che c'erano prima, parliamo di digitale, non digitale terrestre, cioè c'era Telepiù bianco, Telepiù nero, c'erano i canali svedesi che ti davano, svedesi, danesi e finlandesi, ti davano le partite, lavoravano con un sistema di codifica di 2 Mac, io ce l'ho ancora, adesso non so cosa cosa perché non trasmettono più, e c'avevo, si utilizzavano questo tipo di cose e ti decodificava il canale, per cui le partite me le ho sempre viste, fino a una volta che c'era la partita, no, ma Juve, che c'avevo una frequenza impostata, me le prendevo dal computer le frequenze, c'era la tabella e l'hanno cambiata all'ultimo momento e non ho visto la partita, ma a quel punto ho deciso di mettermi in carico. No, io non ho fatto mai abbonamento, eh. Il primo periodo che l'avevo presa, infatti l'avevo fatta prendere anche ad una rossa, e lui ce l'ha ancora, penso, perché la parabola ho visto che ce l'ha ancora. E io l'ho buttata giù, ma tu non ce l'ha. E per cui venivo tutto gratis prima, perché avevo la scheda, me la rifornivo la vita stesso, capito? Però dopo hanno visto che c'era l'inganno e hanno buttato giù ed era più difficile avere una scheda, capito? Se non pagavi scheda non riuscivi più a fare niente, però facevo un lavoro io. Non li vedevo in diretta, ma le vedevo in domani, la vedevo registrata, anche se era per esempio in inglese, che se ne frega, tanto la partita la capivo ugualmente com'era la questione, capito? Sì, capo, no, il discorso è stato un po' più difficoltoso dal momento che c'è stata la fusione tra Stream e Telepiù, che hanno fatto, stanno pagando i diritti, per cui adesso le danno a meno nazioni i diritti di ritrasmissione, però si può vedere ancora, c'è il sito statfootball.com, io sono sempre entrato, adesso non ci sto più entrando, però se ne vai sull'elenco dei canali, ci sono decine e decine di canali, e c'è il canale che ti interessa, vai in turco, non so, sloveno, se ne vai su quella frequenza di lì, e ti guardi la partita, lì hai massimo, le partite ci sono quasi sempre, da. Sì, ma infatti io l'ho visto. E io credo che per cui ha voglia di avere, se vogliamo, che non li ho più usati. E per cui no, non li ho più usati ormai. Già li vedevo gli stessi, capito? Riprendi già. Capo, no, poi invece c'è la storia di chi ha fatto le visioni per non dover fare. Per vedere la forza 2 di questa cosa. Già, forse non vuole già mettere stato, lo ripeti, non ho capito la domanda. Ho detto, per chi ha più televisori, dovrebbe fare più di uno di recorder. Allora, giusto questo qua, se ti vuoi vedere diversi programmi, sì, è vero questo qui. A in camera e secondo me in condizione di volerlo bene, cioè sono loro che hanno fatto questi cambiamenti, sono loro che sono messi in condizione alla monata di vederlo tranquillamente, ci devono dare i decodificatori che ti servono in data, perché uno si sente due o tre televisioni perché cosa c'è da, perché magari da uno che c'è un programma e l'altro no, se non sta da beneficiare si va, capito? Tutte digitali, almeno parliamo di digitale qualità, diciamo, non lo considerano ancora utilizzare il magnetico, registrazione magnetica, perché sanno queste attrezzature qua. Ma no, tutto il segnale deve essere trasformato in digitale, ci vogliono delle attrezzature per trasformarlo. Ma no, in piano piano anche loro si dovranno dare una mossa, perché è come se tu ti registri un'immagine con una videocamera digitale o registrarla con la VHS. La stessa cosa, piano piano i tempi stanno cambiando, anche loro si devono adattare. Naturalmente i trasmettitori sono totalmente diversi, quelli devono cambiare per forza, perché devono ricevere e registrare un segnale in digitale, numericamente, non più su frequenze come erano prima. Tutto digitale, ok. Ciao Luca, ciao Gianni. sotto la collina. Ma non sono là, come sentite tutti quanti? Come va? Potevo bene, campo mi cacca perché stavo tutto il giorno pisciando. Ha vinto anche il Monte Alma. Ok, KK, ma piove, piove. Ragazzi, non fa, non consenso, ma forse non sta piovendo. E niente, non c'è una capazzata. Non ti metti in giù in basso, l'ha capazzato. Io la guardi ieri. Sì, vabbè, lo so che non sta piovendo, non è che... Adesso deve piovere. A me la pioggia, poco mi piace. Vabbè, già purtroppo ci vuole, se no come si fa? Io dico, perché non piove di notte? Ci lascia la foresta anche di giorno. Ma già, spero che non piova, che durante quello che stiamo terminando, dopo l'altra cosa, che sta terminando. Informavo che non si può fare nulla, informavo che magari qualche lavoro si può fare. Che scappa, sì, ma informavo che dobbiamo iniziare a piccere, però no, la faccio smontare il corso tempo. Ci vuole qualche giornata di scuola, così stanno i figli di come a fare. Scappa, non mi fanno salutare in vento per asciugare, e poi qui è il sole, almeno non si è meno, possiamo iniziare a cantare il consiglio. E va bene, la guardi la partita, e tu cosa dici? Come minimo, speriamo che sia una bella partita, non mi interessa chi vinca, l'importante è che vinca il nostro, senz'altro. No, che sia una bella partita, dai. Poi chi vince vinca migliore, però che sia una bella partita. Ma mica c'è Milanista, no, non ci sei. No, tu vieni di... Fatti dire la macchietta all'ufficio a me, scusa tu, mi ha preso il tasso. Tu mi... Sono stato per un silenzio sotto la vita. Oh, sicuramente è meglio i Milanisti che i Juventini, me. Come fa? Tu sono solo lui, stava proprio di palco, giù la notte ancora. Perché l'altro che mi faceva era un fuoco che la faccia più si è trasferito a coso, a Nuvos. Però troppo pesanti a ove lui allora. Erano meglio 15-50 che c'erano prima. Camminava a sera, ma sopra c'era un costruito come no. Camminava un po' dove siamo arrivati. Io la verità, la moto mia, l'altra volta ho problemi di rulli, scusate, cioè di rulli, sì. Più buon strano, mi aveva colpi strani, boom boom. No, aspetta, l'ho smontata, c'era il rullo, cioè si è rotto, ne erano quadrati, erano. Dadi stavano diventando. Cosa ho fatto? Ne ho fatto un paio. Le ho messo una puntina di rullo, tutte le sei. Perché sono sei, l'ho piatto. Sembrava che avevamo quasi il pessimo la volta. Solo mi su camminava, la sera è tornata, stavano di nuovo male. Sono fumati così, no? Non ti dico, era un treno, se va bene, sia che è sputo che è a lungo, benissimo. Aspetta, boh, vediamo. Comunque, forse va a fare il caffè, perché il rullo adesso, poi la lasciamo, perché il rullo non mi faccia i rulli. Infatti, erano molto diversi. Si è fatto bene la cammina, si è fatto male, ah che 75 col Pulini, carburatore, già vedo lo stesso. Sì, ma sto facendo un po' di me, non va a passare se camminavamo bene, ma se lo dico non va a passare. Fatta che non lo ricordo, il giovane c'era quello di Murito, c'era la Rosa Schultri all'epoca, non so se tu te la ricordi. Signora morto, pollo era tutto ingranato, non aveva cibo, non aveva nulla. Dalla messa a notte fino al collo, tutto ingranato. Non c'era. Il brutto è quando si arrettava, a cazzo lo voleva aprire mezzo motore. Vabbè, e quelli sono inconvenienti. Lo sai che c'era questo ricordo, ma l'ha fatto bene, adesso l'hanno ritrovato, non ci sarebbe arrivato. Quando si è morto la spinta a ritrovarci, se volava la spinta, della ritrovarci. Ma è fatta perché il tempo che si doveva volare era lo stesso, o che si era rendito, o che si era rendito, è sempre lo stesso il tempo. Così che se tu la spinta si era indietro, anche normalmente. Sì, ma non l'ho provato. Allucinante. Se la batti così, ma a farlo pure, ci mettevamo lì dove c'è quel partito, di fronte alla chiesa, cambiare campane, me lo ricordo benissimo, cambiando campane, cambiando i collettori, cavolo, le collettori della lavata, e tutto li facevano. Quanta gatta, ci sono passato anche io. I collettori, cilindri, magari, vuol dire. Ma il collettore della valuta da 90, il Maggiorati, no? Ma il collettore della valuta Maggiorati? Non capisco. E vabbè, collettore, io sono il collettore della valuta. Mica ci può maggiorare quello, sta scherzando. Se ci cambi cilindro per mettere il pizzo, va bene, ma il collettore non si può maggiorare, no? E chi ha detto Luca? Ma si può maggiorare il collettore. E allora, quando fa la prima, io almeno lo faccio con l'aspirazione a carico, li modificavi l'aspirazione, li aumentavi il diametro, e allo stesso tempo li aumentare anche lo carico, il diametro dello carico, il collettore di scarico, di un cilindro stiamo parlando. E ma dove è il collettore? Dentro? Fuori, dentro dove c'è le, diciamo, la camera? Sì, ma non dentro, sotto dove attacchi la marmitta, no? Vabbè, la marmitta ci sono anche le marmitte a carico libero, che anziché avere la scorpatura c'è un tubo più grosso. Però qui conta lo scarico del cilindro. Noi quando facevamo l'aspirazione a carico, si chiamava prima, nelle moto a due tempi, gli toccavi l'aspirazione appena appena, gli mettevi il carburato del maggiorato e gli facevi anche lo scarico, se no non funzionava. Ma i lavori si fanno sui carter, non sui pezzi. Sul collettore non si può lavorare, a quanto so io, poi il collettore lo fa allargare, quindi quello, qualche cosa fai, e quello lo scarico. Al limite puoi allargare la camera del cilindro, va bene, però allora, il collettore non si, no, penso, cioè, a quanto so io non si tocca. Ma non sai quanto si tocca, una cosa è finitissima, 3 mm massimo si tocca, se non lo apri più oltre un certo limite non vende, e invece tutto l'ha portato all'aspirazione, no, le facevamo tranquillamente, la moto mia me la sono fatta, io ne ho fatto anche altre, non ci sono stati problemi, naturalmente deve essere tutto rapportato, non è che si muove la lana così a casaccio. Ma Luca non li ha conosciuti quei tempi. Cacchio, non ha giocato poco di moto, io di travaggio e cose del genere non ne ho mai toccato perché non ero all'altezza, ma domanda a Mariani, a Mario Mariani, a Murita, dove ce ne hanno toccato. La messa più veloce che ho visto io era 100, se c'era 125 o 130, adesso non mi ricordo quant'era, c'era praticamente la stessa marmitte, erano dirette, due pezzi di tubo c'era, due pezzi di tubo, un pezzo, no, forse un pezzo era, non mi ricordo, la venta, forse due, non mi ricordo, comunque era molto rumorosa come motorino, e poi c'aveva davanti negli scudi, praticamente l'ha spaccata e gli ha messo la rete, e la moto era, no, guarda, un missile era, tanto camminava, in quarta, ma solo ci si misurava. Scusate un attimo, allora io vi lascio adesso, saluto Luca, saluto Gianni, e tutti quelli che stanno ascoltando, anche io vado a vedere la qualità, ma ci sentiamo più tardi, ciao a tutti. Ciao Roberto. Ok, a dopo, però io sono ancora la sopra delle frittelle, figurati. a dopo, anzi, guarda, dopo di questo programma che cerca a Italia 1, a dopo, ciao Marchiata, ciao Roberto. Ciao, ciao. Tutto di lusso. Lo so, Mario. esempio. C'ho qualche collega che ce l'ha, il man nuovo, qualche collega che ha il DAF nuovo. Sono belle macchine, Mario, sono belle macchine, grazie a Dio stanno iniziando a farle anche comode per gli autisti. Inserisce quella specie di provato automatico quando esce fuori dalla linea bianca nel suo attestare, guarda, la valore se ti sveglia. È positivo, sì, no, anche gli stralis nuovi hanno i sensori, hanno le telecamerine davanti, hanno il sistema, il dispositivo di sicurezza, che se ti avvicini più di quel tanto alla distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede iniziano a suonare, ti ricordano di mantenere la distanza di sicurezza. No, guarda, sono dei gioiellini, Mario, sono dei gioiellini con le macchine. Cappa gappa, così è, così va il mondo, il progresso non è uno scherzo, adesso tutto, i microchip che fanno tutto, controllano tutto, basta che gli fischi le macchie entrano da sole, allora, per carità, molto belle. Positivo, se va avanti di questo passo, Mario, fra qualche anno non serviamo più neanche noi autisti sui camion. No, l'autista ci vuole sempre. Allora, la manovra è quando devi parcheggiare per scaricare, quello lì non lo fa, Arriveranno a fare anche quello, Mario, arriveranno a fare anche quello, amico, cosa ti credi? No, ne ho messo qualche duro, che addirittura per quando si fanno le manovre a marcia indietro, sai, per mettere bene i bilici, e ci sono le telecamere che ti dicono se c'è qualche ostacolo dietro, se c'è qualcosa, per non toccare nessuno. È positivo, se si attrezzano, Mario, che anche quando arrivi nei posti dove devi andare a caricare, soprattutto i magazzini, così che fanno delle piste, pista e torna a retromarcia nella pista. E sta tranquillo che non sbaglia, e a quel punto neanche più gli autisti servono. Cappa gappa. Si fa sempre, ma l'autista c'è sempre, penso che non lo sostituiscano mai, però è molto, molto meno faticoso di una volta, perché adesso ti puoi permettere anche l'uso di distrarti che tutto va bene, non succede nulla, va, perché è tutto automatizzato. Ma Mario, io rimango sempre del parere che è meglio non distrarsi, perché con queste macchine se ti distrai un po' troppo poi sono dolori amici. Già lo so già. Ne ho visto qualche giorno che se l'ha vista anche brutta tanto addietro, lì vicino la curva da Paraesso, ce l'hai presente lì, c'è nella prenda dieta. Ho capito. Qualcuno gli si è girato il bilico, la gandina sai come l'ha schiacciata, sembrava di cartavellina. È proprio quello il bello, Mario, non sembrava, sono di carta avvelina, sembrano tanto robuste ma poi non ne tengono colpo. Questo qui diciamo che mi si è marcato il remorchio e lui cercando di raddrizzarlo ha fatto la manovra e poi siccome il remorchio spingeva troppo è finito che il remorchio si è girato e la gambina si è sbattuta contro il remorchio. Scappa di positivo. Succede quando la strada è bagnata, perché purtroppo devo essere che è già un po' di tempo addietro quello lì che è successo. E siccome la planata maggiore la piglia il rimorchio, e quando la strada è bagnata, se ti scappa il rimorchio hai perso, quello è la cosa più brutta che ti può essere. Io vado a essere tranquilli, sono rilassati, avere sempre il controllo, perché altrimenti è un gran casotto. Non ci vuoi fare, purtroppo all'operaio tocca sempre il problema. Il padrone è seduto con i piedi sotto il tavolo oppure con i piedi dentro la culla e non ha la traia niente. Pure la Luca non è carta gatta. Da qua sotto già poi stavo provando un gommino per un attendino. Se non voglio, se ci riesco, va più su fissa l'antenna, anziché fare con la magnetica sul dirli. Come non lo scuoti più, pare, questa pagata, e mi compri così tanto, di solito ti accompagnavo sino a Silico, ma non è qua, pagata, tratta di positivo. Oh, ma chi non lo dimmi che non ha niente, mi pare, poi la pagata. Allora, vedi che bisogna avere, o non vogliamo domani, dici, ma ho sofferto, ma tutto questo è il mio, gatta gatta, gatta gatta, ma cosa ti ha fatto, l'appartamento oppure qualche caso indipendente con un po' di terreno? Appartamento? Quello sì che è una sbaglia, sei sempre a musicare con condominio, poi chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Non lo vuole. No, perché sarò con condominio, certo testa, certo borretti, già lo sai. Facciamo in grande, prima pigliarsi una cosa e pagarsela, poi dopodiché passo il permesso e passo una bella casetta indipendente, così non ti rompe la mazza nessuno. Non mi sono arrivato ora a parlare, ma ho pagata, andò bene, va. Poi inizio a pigliare la discesa. Inizia a ritirare la via per lo sussilico, la pagata, andrà bene. Oggi non c'è nessuno, sono tutti quanti a guardarsi la partita. La pagata, andrà bene. Oh, parlo, tu stai iniziando a abbassarti parecchio, Tra poco ti perdo. La pagata. Purtroppo così, la nostra frequenza è piccolina. Io già mi faccio sentire, poco poco, ma già mi faccio sentire, là. È vero. Stai scomparendo in questo tratto, ho sentito che stavi chiacchierando, però non ho capito la razza. È vero. Vabbè. Ma non è il tempo, sta piovendo lì. Cappa cappa, a me è meglio là, se non c'è la pioggia è meglio, una rottura di scatole meno. Ma buon padre, io ti saluto perché in tanto ora ti parlo e poi non capisco quello che mi dici. Ciao padre, buon proseguo, buon tutto, ce la discutiamo alle migliori, cappa cappa, cappa cappa.